che stanno proprio lì a esatto Cremona. Ecco, ce l'abbiamo al telefono. Ecco, allora raccontaci bene tu che eri lì, perché è molto allora, difficile. Allora, il corteo è stato di nuovo fermato, questa volta di nuovo su un'altra via, superato quel punto che vi raccontavo, è stato di nuovo fermato su un altro viale, e prosegue il lancio di lacrimogeni fitto da parte delle forze dell'ordine. La testa del corteo è avvolta da proprio da una cortina fumogena di aria irrisperabile, comunque la testa del corteo è altrettanto determinata ad andare avanti e in qualche modo sta cercando, nonostante il fatto che ci stiano gasando già da almeno mezz'ora, di continuare questa manifestazione. Tu pensi che comunque tutto questo, appunto, c'è una testa che in qualche modo sta anche proteggendo il corteo, per intenderci. Noi siamo una cinquantina di metri dietro, perché è veramente irrespirabile l'aria, non si riesce ad andare avanti, comunque già c'è la seconda volta che le forze dell'ordine stanno cercando di fermare questa manifestazione, appunto, con un piccolo lancio di lacrimogeni. Senti, il corteo rimane comunque compatto nonostante, insomma, il tentativo di respingerlo. Non ho capito, scusami. Il corteo rimane comunque compatto, dice, nonostante i lacrimogeni. Sì, no, ma guarda, vi dico, la manifestazione è molto determinata, molto decisa, determinata, si sta ancora tutti in corteo, si continua a cercare di andare avanti, nonostante ora in questo momento non si riesce neanche a guardare cosa c'è 50 metri dopo, tanto è la nebbia provocata dai lacrimogeni, e allora, appunto, come raccontavo, che è irrespirabile. Ora c'è ancora la convinzione e la determinazione ad andare avanti, poi quello che accadrà nella prossima mezz'ora non lo so. Siamo un po' retrocessi di qualche metro, perché non a meno che uno non c'ha la maschera antigas non può stare, non può andare avanti, questo è. Si sta aspettando un po' che anche che si tira la nebbia, tutta questa fumera che ci stanno casando, come raccontavo, è semplicemente questo. Va bene. Lacrimogeni a go-go, elicottero, lacrimogeni a go-go, un po' da vari punti. Va bene. Cercano, appunto, di impedire che la manifestazione prosegua. Va bene, ti ringrazio molto e ci sentiamo comunque tra un pochino, allora, ci aggiorni. Sì, magari a più tardi, va benissimo. Va bene, ciao, grazie, ciao.